Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, è domenica 2 marzo 2014, è la 157esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Gio Navini. Thank God I'm free, 'cause it's hard enough for me to take care of me, oh, oh. And the cat's carrying a heavy load, and the cat never really ever moans, and the cat's not. Nel sommario di questa settimana abbiamo una nuova tappa al Parco dell'Abatino, dove incontreremo un gruppo di cebi. Per l'attualità un servizio da Milano su un presidio nella giornata per l'abolizione della carne. Parleremo anche del presunto aumento di vegetariani e vegani nella società italiana. Parleremo poi di un convegno sulla sperimentazione animale che si terrà nei prossimi giorni a Scandicci, mentre Gabriele Palloni, il nostro chef, ci proporrà un tortino di spaghetti. Infine, per la parte culturale, torneremo a parlare di lupi, un argomento molto attuale vista la situazione assai critica che tutt'oggi viviamo in Maremma, con la guerra ai lupi che è in corso in quella fetta di Toscana. E lo faremo a partire da un libro di Marco Albino Ferrari. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Oggi, nell'incontro con Antonio De Marco al Parco dell'Abatino, parliamo di un gruppo di cebi, dei piccoli primati, che sono arrivati in questo grande rifugio in provincia di Rieti ormai diversi anni fa. Noi abbiamo tre gruppi, due provengono dall'Istituto di Psicologia del CNR, dove fanno delle ricerche etologiche proprio sui cebi, proprio per l'interesse che questa specie ha per i comportamenti complessi, insomma per l'utilizzo degli attrezzi, per tutta una serie di cose, insomma, per cui sono molto interessanti. Un altro puppo viene dalla Francia, sono stati trasferiti qua momentaneamente in quanto i ricercatori che l'avevano seguiti sempre facendo delle ricerche etologiche avevano paura che in qualche modo alla fine delle loro ricerche potessero essere sottratte a loro queste scimmie per essere trasferite in laboratori di sperimentazione farmaceutica. Per evitare questo, insomma, siamo riusciti in qualche modo a portarli qui in attesa che questi ricercatori attrezzino, devo dire anche in parte a loro spese, una struttura che permetta poi, insomma, di poter continuare a studiarli garantendo che non ci sia nessuna tragitto verso evidentemente questi altri aspetti della discutibile, certo, della ricerca. Che cosa succederebbe se entrassimo in questa gabbia? No, qui niente, questi sono abbastanza tranquilli, ci possono essere delle qualche, soprattutto i maschi dominanti o il maschio dominante che, e poi di seguito anche gli altri che possono mostrare segni di minaccia, ma poi la cosa si conclude così. Altra cosa sarebbe se noi prendessimo per esempio un piccolo, sottraessimo un piccolo alla presenza degli adulti per esempio, e allora in quel modo, in questo caso ci avremmo proprio un attacco degli adulti. Un attacco organizzato? Sì. Cioè i piccoli sono difesi da tutto il gruppo. Qui ce n'è uno che morde la rete con i suoi dentini e si arrampica aiutandosi con la coda. Hanno una loro, tra l'altro, insomma, hanno bisogno anche di una dieta molto, molto varia, per cui insomma ricca di verdura, frutta, poi anche hanno bisogno di un apporto proteico abbastanza consistente. E poi, insomma, per queste strutture c'è sempre la necessità di inventarsi degli arricchimenti ambientali continuamente, perché insomma per vivacizzare il gruppo. In questo caso direi, essendo un gruppo in cui ci sono varie generazioni che si confrontano, piccoli, grandi, adulti eccetera, insomma già di per sé è abbastanza vivace. Il problema si pone in quei gruppi che sono costituiti da soggetti di uno stesso sesso, oppure insomma che non ci sono giovani eccetera, in cui c'è il rischio che questi animali tendono ad annoiarsi, a rilassarsi, e quindi da questo punto di vista bisogna intervenire in maniera più efficace. Sono nati tutti in cattività questi? Questi sì, sono tutti nati in cattività e alcuni appunto sono nati qua, ma quando ce li hanno portati erano tutti animali nati in cattività. Diciamo che in natura, come tutte le scimmie, animali in cui in gradi diversi c'è sempre un rischio che possano estinguersi. Nel caso dei ceppi le popolazioni sono ancora consistenti, però noi parliamo di un ambiente come foresta amazzonica, che comunque ambienti in cui processi di deforestazione e di alterazione dell'ambiente sono abbastanza presenti, per cui non si può mai escludere che nei prossimi anni ci sia un rischio consistente di perdita di biodiversità, in particolare collegata proprio ai primati. Notizie, interviste, attualità. Sono saltata giù dal camion diretto al macello e mi sono trovata in mezzo al traffico cittadino. La polizia ha faticato molto per catturarmi, ma mi sono salvata. Grazie alla mia determinazione non salirò mai più su quel camion. È la storia di una capretta come tante migliaia che ogni giorno vedono la loro esistenza improvvisamente spezzarsi dentro le mura dei macelli. Lei però è diventata Sky, la capretta, che si è opposta a quella violenza quotidiana e si è salvata. La storia di un riscatto, un simbolo per le altre migliaia di sue compagne che non ce l'hanno fatta. Lei, come la mucca Teresa, la pecora Sara, il maiale Yoda, e tutti gli altri la cui vicenda è stata raccontata negli striscioni del presidio per l'abolizione della carne organizzato da Oltre la Specie sabato 22 febbraio in piazza San Carlo a Milano. Una protesta silenziosa e toccante, dove a parlare erano loro, gli animali, che hanno combattuto e vinto contro lo sfruttamento e la sofferenza e che ora hanno un nome, un'identità e una speranza. Nell'attesa che ogni gabbia venga aperta per sempre, cerchiamo almeno di cambiare prospettiva, spiegano i manifestanti. Riconosciamo agli animali la ferma volontà e la capacità potenziale di autoliberazione. Compagni affiancati nella lotta, racconta ai nostri microfoni Marco Reggio, attivista di Oltre la Specie e autore insieme ad altri del blog Resistenza Animale. Sentiamolo. Questa volta, rispetto ai precedenti flash mob o presidi, abbiamo provato, come dire, a utilizzare una strategia di comunicazione un pochino diversa, nel senso che abbiamo dei cartelli, dei grandi cartelli che raccontano brevemente delle storie con la foto, delle storie di animali destinati al macello che si sono salvati ribellandosi attivamente, quindi scappando o dal camion che li trasportava al macello o dall'allevamento e così via. Come dire, cerchiamo di sensibilizzare le persone che di solito di fronte a queste storie hanno, come dire, manifestano una certa solidarietà, comprendono effettivamente la voglia di ribellarsi degli animali, la resistenza che gli animali mettono in atto tutti i giorni. Recentemente avete attivato questo blog Resistenza Animale che racconta appunto storie di animali che si sono opposti alla violenza quotidiana. Sì, diciamo che una serie di persone di diverse associazioni, attivisti, attiviste di varie provenienze hanno iniziato a riflettere sul fatto che gli animali non dovrebbero essere considerati come soggetti passivi della lotta di liberazione animale, ma come soggetti attivi, perché in realtà ne parliamo poco, ma tutta la storia anche del movimento per i diritti animali fin dall'Ottocento è costellata di questo intreccio di solidarietà anche con gli animali che attivamente si ribellavano. Abbiamo iniziato a provare a documentare questa cosa e ne è venuto fuori una cosa incredibile, perché facciamo fatica quasi a stare dietro a questi fenomeni, che anche se la stampa ne parla poco in maniera folcloristica, in realtà sono notevoli. La cosa interessante per esempio in queste storie è che non è che soltanto la gente solidarizza e quindi noi per esempio oggi possiamo chiedergli se anche tu comprendi che una capra che è scappata per esempio dal camion che la trasportava al macello puoi essere anche tu a favore dell'abolizione della carne, dell'abolizione degli allevamenti e dei macelli, quindi in generale. In realtà addirittura in queste storie è venuto fuori che per salvarsi questi animali hanno fatto proprio leva sulla solidarietà degli umani, anche umani che mangiavano carne talvolta, quindi con una certa contraddizione, no, personale, che di fronte a questa immensa voglia di ribellione hanno collaborato per strapparli al macello e portarli in dei rifugi per esempio. Ultimamente sono circolati dei dati dell'Eurispes sul fatto che sia cresciuto il numero dei vegetariani, pare non dei vegani, anzi i vegani pare che siano addirittura, ahimè, in calo. Sono dati secondo te confortanti o c'è ancora parecchio da fare? Oggi in particolare, in quanto militante della campagna per l'abolizione della carne, non confido poi più di tanto nel vegetarismo, nell'aumento dei vegetariani e dei vegani come strumento di cambiamento della società. Nel senso che il cambiamento deriva dalla richiesta chiara di abolizione della schiavitù e non tanto dal non consumare i prodotti della schiavitù, strumento di boicottaggio che può essere uno strumento tra i tanti in più di appoggio a questa campagna. Nonostante questo è chiaro che se io vedo aumentare il numero dei vegetariani e vegani sono comunque confortato, perché è un segnale chiaramente di presa di coscienza che poi si traduce in un comportamento sul proprio corpo, su quello che si mangia. Però i dati vanno presi un po' con le pinze, perché effettivamente anche anni fa uscirono già questi dati simili, ci dicono chiaramente che in Italia il numero di vegetariani è probabilmente molto maggiore che in tanti altri paesi, tranne forse direi l'Inghilterra, questo è bello per quanto riguarda l'Italia, probabilmente sono sovrastimati, rientrano persone che mangiano il pesce, vegetariani non etici, cioè che lo fanno per esclusivi motivi di salute, cosa che dal punto di vista politico è assolutamente irrilevante, e appunto direi forse La cosa più interessante, in realtà, noi abbiamo fatto a questo proposito delle interviste proprio in piazza, sia a Milano che a Varese, anche più volte, proprio per andare a vedere nella pratica cosa le persone, che di solito, tra l'altro, tutte quelle che trovavamo erano tutte onnivore, raramente si trovavano vegetariani o vegani, cosa pensano proprio dell'idea di abolire lo sfruttamento animale ai fini alimentari. E con una certa sorpresa abbiamo notato che anche gli onnivori, nella maggior parte dei casi, se messi un po' alle strette, almeno in teoria, sostengono come minimo che non avverserebbero, non si opporrebbero assolutamente a una proposta di abolizione degli allevamenti dei macelli, e in alcuni casi la sosterebbero anche. Certo, io rinunciando anche alla carne, quindi. Questo non è dato sapere, alcuni mi pare chiaro no, nel senso che non rinunciano adesso alla carne in questo contesto, però noi abbiamo chiesto proprio anche questo, cioè, quindi tu sai che si porta avanti una lotta, una battaglia, una richiesta che poi alla fine ti toglierà la bistecca dal piatto, e le persone dicono bene, molte dicono mi adeguerò quando verrà abolita. Certo, questo può essere considerato un po' incoerente sul piano individuale, e sicuramente lo è, però secondo me è più interessante questo aspetto che non tanto quanti vegetariani, che ripeto, secondo me sono comunque un po' sovrastimati, quanti vegetariani ci sono in Italia. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Ricerca senza sperimentazione animale, si può? Questo è il titolo dell'incontro che si terrà il 4 marzo alle 21 a Scandicci. Gli ospiti sono di alto livello per il mondo animalista: Massimo Tettamanti, che è chimico e coordinatore del progetto Italia senza vivisezione, fra le altre cose, e Leonardo Caffo, che è un filosofo postdoc dell'Università di Torino. Quindi verrà trattato un doppio aspetto della sperimentazione animale, sia quello scientifico che quello etico, quindi un quadro completo della situazione. Ne parliamo allora con Silvana, una delle coordinatrici dell'evento e membro dell'associazione Scandicci in Movimento. Silvana, a chi è rivolto l'incontro? Questa serata è stata ideata da me, ma con l'accettazione di tutta l'associazione Scandicci Movimento, che è una libera associazione di cittadini che si occupa di far partecipare e coinvolgere i cittadini sui temi di decisione di pubblico interesse. La sperimentazione animale purtroppo rimane un argomento di attualità, e neanche una petizione popolare di più di 1 milione di firme riesce a smuovere le cose. Come è stato accolto l'argomento dall'associazione? Immagino che nell'associazione non ci siano soltanto animalisti, insomma, ecco, come hanno visto l'argomento? Allora, io proposi questo argomento, appunto, come hai detto giustamente te, di attualità, perché sai che entro il 4 marzo il governo dovrà emanare il decreto legislativo che cambierà formalmente la normativa sulla vivisezione, anzi lo speriamo. Quindi nell'associazione, come hai detto giustamente, ci sono tante persone con idee diverse, però alla fine abbiamo optato per fare una serata informativa, nel senso che sia i relatori, che sono Leonardo Caffo e Massimo Tettamanti, relazioneranno nel loro proprio dominio quello che è la vivisezione in Italia e in Europa in questo momento. Chiaramente con un taglio, Massimo Tettamanti più scientifico e Leonardo ontologico-filosofico. Questo non toglie che successivamente potrà essere prevista anche un tavolo di confronto, di dibattito con i pro-SA, cioè i pro sperimentazione animale, però al momento volevamo fare una serata che aveva più un sapore, diciamo, più informativo per la cittadinanza, che può porre domande poi alla fine della serata e quindi ricevere ancora chiarimenti più approfonditi. Diciamo bene allora tutti i riferimenti dell'evento per chi vorrà raggiungerci. L'evento si trova a Scandicci presso il CNA, che è una struttura vicino al comune di Scandicci e vicinissimo alla fermata Resistenza, che è la penultima fermata della tranvia di Scandicci. Via è via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, quindi è facilissimo da raggiungere. La serata verrà anche ripresa in streaming, il contatto del canale sarà pubblicato sulla pagina di Facebook dove è pubblicato l'evento. E restiamo animali? Restiamo animali! Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Oggi vogliamo parlare dei lupi, dei quali ci siamo occupati con notizie di cronaca nelle puntate scorse a causa della campagna di morte attuata in Maremma da ignoti personaggi. E di questi giorni la notizia di un piano speciale della Regione Toscana, d'intesa con le province di Grosseto, Arezzo e Firenze, per affrontare la questione dei lupi e degli ibridi randagi sul piano della razionalità e del rispetto. Il piano prevede fra l'altro il rafforzamento dell'anagrafe canina, la protezione delle greggi più esposte a possibili assalti, i risarcimenti agli allevatori eventualmente danneggiati, il censimento della popolazione dei lupi e la protezione della loro purezza. Un punto quest'ultimo discutibile, come vedremo alla fine. Il piano prevede una spesa intorno ai 4-5 milioni di euro e si avvarrà fra l'altro di consulenti esperti, uno fra tutti il professor Luigi Boitani. Vedremo come andrà a finire questo annunciato impegno della regione. Parliamo proprio di Boitani perché è protagonista del libro che oggi vi proponiamo, La via del lupo, scritto da Marco Albino Ferrari e pubblicato dalla Terza nel 2012. L'autore, come si intuisce dal titolo, segue le tracce del lupo nelle zone del suo insediamento, dai Monti Sibillini alla Maiella, dalle foreste casentinesi alle Alpi Marittime, alla Val Savaranche. È un racconto di piccole e grandi avventure, di incontri con persone che il lupo hanno visto, con presidenti di parco e naturalisti che si stanno impegnando per proteggerne l'esistenza dalle infinite insidie. Prime fra tutte un habitat spesso ostile e la diffidenza delle popolazioni. Una diffidenza che ha radici antiche, che in fondo non è mai cessata, nonostante gli sforzi compiuti. Le vicende di queste settimane in Maremma lo dimostrano. Dicevamo di Boitani, che fu protagonista con l'etologo Eric Zeven e con David Mech nei primi anni 70, della prima missione scientifica intrapresa in Italia per censire il lupo, per studiarne i movimenti, per valutarne le sue possibilità di sopravvivenza. Il tutto avvenne grazie al cosiddetto progetto Lupo, ideato dal WWF Italia, diretto all'epoca da Fulco Pratesi. Si trattava di censire la presenza del lupo lungo l'Appennino, in particolare nel massiccio della Maiella. Quel censimento fu un'autentica avventura, condotta da tre studiosi, il più vecchio aveva 34 anni, con mezzi tecnologici che oggi appaiono antiquati. Quella campagna portò a stabilire che il lupo ancora abitava quelle montagne, ma che era in grave pericolo di estinzione. Così Ferrari descrive l'avvio della ricerca. I protagonisti sono tre studiosi appena trentenni, hanno un aspetto trasandato e un po' hippie, e comunicano fra loro in una lingua ibrida, un mix di inglese, italiano e tedesco. Vivono in un totale e felice isolamento sulle montagne della Maiella e si rifugiano ininterrottamente, stagione dopo stagione, in una capanna di tronchi d'albero, priva di luce, di gas, di telefono, vicina ai confini del bosco. Sono giovani, disagi e pericoli non li preoccupano e grazie alla loro formazione, diversa e complementare, hanno messo su una squadra ideale per studiare il lupo nel suo stesso ambiente. Il lupo diventerà parte di loro. Il momento topico di questa pionieristica ricerca è la cattura del primo esemplare per l'applicazione di un radiocollare. È un episodio che Ferrari racconta con grande pathos. Erano tempi quelli in cui non esistevano i satelliti e le tecnologie oggi a disposizione, Il radiocollare aveva una capacità di trasmissione limitata a poche centinaia di metri e perciò, per studiare gli spostamenti del lupo, occorreva muoversi in boschi impervi, con le difficoltà che è facile immaginare. Ferrari insegue il lupo sulle nostre montagne, accompagnando il lettore in un'esplorazione densa di mistero e di avventura. Un'esplorazione ricchissima, piena di fascino, per quanto l'autore debba ammettere, non sono mai riuscito a scorgere un solo esemplare di Canis lupus italicus in natura. Ma la ricerca del lupo, lo sforzo compiuto per immaginarne la vita nel folto della foresta, i passaggi di notte nelle viuzze di paesi montani semiabbandonati sono altrettanto emozionanti dell'incontro vero e proprio. Alla fine del libro, Ferrari sviluppa considerazioni sul destino del Canis lupus italicus. A cavallo fra gli anni 60 e 70 si toccò probabilmente l'apice del pericolo di estinzione. Oggi ci sono leggi e convenzioni che proteggono il lupo, ma la minaccia, secondo i naturalisti, è un'altra, e cioè l'ibridazione. La purezza della razza è cioè in pericolo per gli incroci con i cani in selvatichiri, i cosiddetti ibridi, diffusi anche in Maremma, e che la regione, con il suo progetto citato prima, si propone infatti di individuare, isolare e trasferire. Qui scatta la contraddizione dei punti di vista fra il biologo naturalista, interessato alla sopravvivenza del patrimonio genetico del Canis lupus italicus, e l'animalista, interessato a tutelare gli individui e quindi aperto all'incrocio e al meticciato. Vi lasciamo con la lettura delle pagine conclusive in cui si affronta questo cruciale argomento. Perché dovremmo salvare il lupo a discapito di altri canidi? In nome della purezza di una specie a discapito di un'altra ibridata? Ma la purezza, categoria potenzialmente così pericolosa, è una porta chiusa all'evoluzione. Perché il lupo sì e un randagio no? Avevo chiesto a Luigi Boitani. Il concetto di purezza razziale fra gli uomini è sì aberrante, avevo risposto. Io che sono un biologo della conservazione, però, mi pongo la questione etica che l'uomo non intacchi e modifichi l'ambiente naturale. Il cane è il risultato di un'elaborazione genetica effettuata dall'uomo nel corso dei millenni attraverso l'incrocio per fissare determinati caratteri. Il cane è frutto di una selezione non naturale, ma umana. Permettere che vada a inquinare il patrimonio genetico del lupo fino a farlo scomparire è un sopruso che noi faremmo alla natura. Ma se si decide di salvare il lupo, lo si deve salvare nel suo ambiente, non allo zoo. Lo si deve salvare come soggetto naturale che vive quanto più possibile una sua vita naturale. L'uomo afferma di avere etica, consapevolezza. L'etica, la consapevolezza, non dobbiamo applicarle solo per le cose nostre. Permettere che i cani si accoppino con i lupi è come liberare nell'aria un inquinante. Sì, per evitare che il lupo scompaia dovremmo arrivare, se necessario, ad abbattere i cani randagi. L'animalista dice di no. Dice che l'ibrido è il nuovo lupo delle nostre montagne. Ma l'animalista, per definizione, salva gli animali, salva i singoli gatti e i singoli cani dal canile. Il biologo salva le specie animali. Ognuno ragiona dentro i propri limiti. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you find next Monday or... Oggi daremo una ricetta che ricorda un po' la tradizione campana, cioè quella del tortino di spaghetti. Per 4 persone le dosi sono 200 g di spaghetti integrali, 250 g di farina di ceci, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, uno spicchio di aglio, un rametto di rosmarino e un cucchiaio di lievito alimentare e scaglie. Cuocete gli spaghetti integrali in abbondante acqua salata, scolateli e passateli in padella con dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio e del rosmarino tritato e condite con del pepe nero. A parte, sciogliete la farina di ceci con dell'acqua, circa mezzo litro, ed un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Unite gli spaghetti all'impasto di farina e ceci, aggiungete un cucchiaio di lievito alimentare e scaglie e fate cuocere in una padella antiaderente con dell'olio extravergine d'oliva ben caldo. Fate cuocere a fuoco lento da entrambi i lati e servite. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Cominciamo oggi con un articolo comparso in prima pagina su Repubblica, almeno il titolo iniziale, del 24 febbraio. Quegli orsi ci fanno paura, portateli via o gli spareremo. Raccolta di firme in Alto Adige, si avvicinano troppo ai paesi. L'articolo è di Enner Meletti e racconta una vicenda che abbiamo già affrontato in questa trasmissione con il nostro corrispondente dal Trentino, Zenone Sovilla, e cioè l'insofferenza che in quella zona si sta manifestando verso gli orsi, oggetto fra l'altro di un importante progetto europeo di ripopolamento. Un'insofferenza che ha sicuramente ragioni pratiche, alcuni peraltro limitati casi di aggressione di orsi alle greggi, ma che affonda le sue radici anche in un pregiudizio storico, atavico, verso l'orso, reputato fonte di pericolo addirittura per l'incolumità umana, cosa che sappiamo essere pressoché inesistente, come lo stesso articolo di Meletti poi documenta. L'articolo inizia in questo modo ed è davvero sconcertante. Sembra davvero cattivo questo sindaco. Il 10 gennaio ha preso carta e penna e l'ha scritto all'assessore provinciale. Se non mi togli di mezzo gli orsi, fra un mese darò il via libera ai nostri cacciatori. Dirò loro, sparate. Il personaggio in questione è Werner Distertoft, 41enne, primo cittadino di Termeno. Il mese in realtà è passato e i cacciatori non sono entrati in azione, ma la tensione resta molto alta in quell'area e il sindaco è stato ribattezzato da un giornale di lingua tedesca Barentoter, cioè assassino degli orsi. Io posso dire soltanto, dice a un certo punto questo sindaco, che qui la gente è davvero arrabbiata. L'altro giorno un mio concittadino ha visto un orso, un cucciolone di un quintale e mezzo, mentre uccideva una pecora e ne feriva altre due. Sono stati devastati alveari, ma soprattutto c'è la paura di incontrare questi animali all'improvviso e di essere aggrediti. In realtà questo pericolo di aggressione non esiste, lo spiega nel corso dell'articolo Roberto Zuanetti, direttore del Parco Nazionale dell'Adamello e del Brenta. La paura dell'orso, dice, si batte solo con l'informazione. Bisogna tenere presente che quello che possiamo incontrare non è l'orsetto Yogi, è un animale selvatico che può pesare tra il quintale e due quintali e mezzo, e quando si alza in piedi supera i due metri. Quando si mette in difesa fa quell'urlaccio che mette i brividi, ma lo fa per spaventare e basta. Zanetti racconta che dal 99, quando è cominciato il ripopolamento con gli orsi di quella zona geografica sulle Alpi, sono state raccolte le testimonianze di 256 persone che hanno avuto un incontro ravvicinato con l'orso. Nel 64% dei casi l'orso si è allontanato con calma fuggendo e nel 36% è rimasto fermo. Non c'è mai stata un'aggressione. Il responsabile faunistico del parco dell'Adamello e del Brenta, Andrea Mustoni, spiega poi che l'incontro con l'orso è rarissimo. L'orso è schivo, tende ad evitare l'uomo perché lo teme, ma può capitare di incontrarlo, magari a distanza di pochi metri. Allora l'uomo deve fare capire all'animale che non ha paura di lui, come fa con un cane. La ricetta è semplice, pacatezza e rispetto. Se l'orso non fugge, come invece succede spesso, l'uomo deve girarsi lentamente e andarsene. Ripeto, lentamente. Così non si stimola l'istinto di sopravvivenza dell'animale. Con il mio lavoro l'orso l'ho incontrato tante volte, anche assieme ai miei bambini. In quei momenti comprendi la frase di Robert Heinhard, artista, animalista e naturalista. Una foresta senza orsi non è una vera foresta. Dal Corriere della Sera di lunedì 24 febbraio riprendiamo una notizia che arriva dal Belgio e dice: scontro fra zoo per i due panda cinesi accolti dal Premier. Resteranno in Europa 15 anni. Si tratta di due poveri esemplari di panda che sono coinvolti nella cosiddetta diplomazia del panda attuata da Pechino, che consiste nello stabilire relazioni bilaterali con paesi spesso europei, comunque di altri continenti, e di cementare queste intese donando, o meglio prestando, due esemplari di questo rarissimo e splendido animale. Il caso nato in Belgio è perché c'è stata una disputa, come al solito, fra fiamminghi e francofoni, e per la scelta del premier Di Rupo, francofono di origine italiana, di dirottare i due poveri panda nella sua città natale, Mons, in Vallonia. Alla fine dell'articolo, Guido Santevecchi, che è il corrispondente da Pechino del Corriere della Sera, riferisce di uno studio dell'Università di Oxford che ha seguito le orme dei panda prestati dalla Cina agli zoo stranieri e ha rilevato che dal 2008 gli orsi giganti vengono affittati a quei paesi che stringono accordi con Pechino con la fornitura di materiale prezioso come l'uranio, essenziale per il grande balzo verso l'energia nucleare. È successo per Canada, Francia e Australia. E poi c'è la Scozia, che in cambio manda salmone. Siamo di fronte all'ennesimo caso degli animali utilizzati in un modo davvero umiliante. Sul Corriere c'è una foto tristissima con il premier Di Rupo in primo piano che tiene in mano un pupazzetto di panda, ma sullo sfondo si vede, all'interno di una gabbia e oltre un vetro, il panda vero con il suo grande testone e un'espressione molto triste. Parla di zoo, sempre sul Corriere della Sera, ma del 25 febbraio, la nota scrittrice Dacia Maraini. La crudeltà degli zoo nella civile Danimarca è lo spazio della sua rubrica, Il sale sulla coda. Lo spunto è offerto dalla tremenda vicenda della giraffa Marius. L'uccisione della giraffa Marius si poteva evitare. A Copenaghen non ha vinto la ragione, la sintesi che offre in un titoletto il Corriere della Sera. E in un passaggio Dacia Maraini si sofferma sugli zoo. Leggiamolo. Sinceramente pensiamo che gli zoo andrebbero del tutto eliminati. Ricordiamo che sono nati nell'Ottocento per far conoscere a chi non aveva nessuna possibilità di vedere una bestia rara gli animali selvatici dal vivo. Ma oggi, con la facilità di visita dei parchi e con la possibilità di conoscere anche gli aspetti più intimi della vita selvatica stando seduti in poltrona e guardando le immagini filmate, diventa incongruo e insensato tenere in gabbia delle povere bestie, oltretutto in via di estinzione. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate del nostro blog, che non è più restiamoanimali.wordpress.com ma è restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.